Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio, buona domenica. Riflettori oggi puntati su Roma e sul servizio di bike sharing, le biciclette in condivisione. Ricorderete tutti le immagini di poco meno di 2 anni fa, di quelle bici gialle prese a prestito e poi vandalizzate, buttate nel Tevere, addirittura appese sugli alberi o fatte a pezzi con rottami gettati qua e là. Un progetto, quello del bike sharing, che nella capitale sembrava definitivamente tramontato. Invece, nonostante questi trascorsi, c'è chi ha voluto scommettere ancora su questo servizio a Roma, e il bilancio sembra essere positivo. A Roma sono 2 gli operatori presenti dallo scorso autunno con bici elettriche, Uber con le Jump, seguita a poche settimane di distanza da Elbitz con Greta. Ma prima di parlare con i rispettivi manager, sentiamo un piccolo sondaggio che abbiamo lanciato tra alcuni utilizzatori del bike sharing romano, e le risposte sono state soprattutto sulle Jump di Uber. La mia esperienza con le bici Jump a pedalata assistita free floating di Roma è un'ottima esperienza finora, l'avrò prese almeno una decina di volte per tratti medio-brevi, diciamo intorno ai 10 minuti, e trovo che per questi tratti brevi, soprattutto di collegamento tra mezzi diversi, sia molto utile. Le bici sono ottime, vanno molto bene, l'unico vero difetto è che costano tanto. Per quanto riguarda le Elbitz, le vorrei provare ma non le trovo mai. Una bella app e soprattutto una bella bici, discretamente ben frenata, cambia il mozzo, se la adatta anche ai più alti come me, e poi la capacità di carica è sorprendente. Non credo di aver mai visto un cestino anteriore così capiente e robusto. È un servizio comodissimo per una mobilità alternativa. I punti di forza sono la disponibilità estrema di biciclette in tutta la città. Il punto un po' debole è verificare, ed è una raccomandazione che faccio agli altri utenti, verificare sempre ogni volta prima di partire che la bicicletta sia carica, perché sennò poi si potrebbero avere dei problemi, e a me è successo nel funzionamento del motore elettrico. Io vivo a Roma, per lo più uso la mia bicicletta per spostare, però non capita di rado che faccio anche ricorso al bike sharing, soprattutto quello di Uber, perché le biciclette si trovano più facilmente. È un servizio che costa molto, vero è che questo prezzo dà anche l'idea all'utente che ci sia effettivamente un controvalore. Da utente spero che entrino nuovi player sul mercato in modo tale che i prezzi si abbassino e che si allarghino anche le aree di usabilità di questi mezzi. Ho usufruito del servizio Jump di Uber e devo dire che le biciclette sono molto comode e il servizio e la manutenzione sono ottimi. Sono un po' care. So che c'è anche un altro servizio, Elbitz, ma non ho ancora avuto modo di provarlo perché le bici non sono così reperibili come quelle di Jump. E allora sentiamo come sta andando il servizio di Uber con le sue bici arrivate a Roma il 21 ottobre scorso. Buon pomeriggio al general manager di Uber Jump, Fabio Stefanini. Buon pomeriggio, molto piacere, grazie per l'ospitalità. Che bilancio possiamo fare di questa esperienza nella capitale? Allora, siamo entrati sulla città di Roma da circa 3 mesi al giorno d'oggi e siamo estremamente soddisfatti dei risultati che abbiamo potuto trovare sulla città. I dati che abbiamo ricavato dimostrano che il servizio è di gradimento dei cittadini romani e effettivamente risulta essere un mezzo complementare e talvolta anche alternativo ai mezzi di trasporto personale, che è un po' l'obiettivo che ci siamo dati in generale come Uber e nello specifico come Jump in questo caso. I risultati del primo mese, che hanno visto circa 100.000 corse effettuate sul territorio romano, dimostrano che questo è un successo, e lo dimostrano anche confrontandoci con quelli che sono i lanci che abbiamo fatto su altre città europee, dove in nessun caso con così tanta velocità abbiamo raggiunto queste corse. Diamo qualche altro numero: quante bici avete e quanti chilometri quadrati coprite? Qual è la vostra area? Sì. Allora, in questo momento abbiamo 2.800 bici sul territorio romano, siamo partiti con 700 il 21 di ottobre e siamo rapidamente cresciuti fino a questo numero di 2.800. L'area che copriamo su Roma è stata di 57 km quadrati al momento del lancio e si è progressivamente espansa fino agli attuali 67 km quadrati. E qual è la distanza media percorsa da un utente? 2,2 km in media percorsi dagli utenti. Quindi questo dato conferma un po' quelle che erano le nostre aspettative sul fatto che il servizio di bike sharing è un servizio che viene utilizzato per l'ultimo miglio, quindi per coprire quello spazio che c'è tra la destinazione finale e magari il parcheggio in cui l'utente lascia la sua auto, piuttosto che una stazione dell'autobus, piuttosto che una stazione della metropolitana. E a 3 mesi il dato totale dei chilometri invece percorsi ancora non l'avete? Non abbiamo ancora questa informazione, le posso confermare che i trend che abbiamo visto nel primo mese stanno stanno continuando e quindi siamo molto fiduciosi che nel momento in cui la stagione e il meteo ci aiuteranno ci saranno degli ottimi risultati. Tra l'altro sui chilometri realizzati dagli utenti c'è anche una collaborazione con il Comune di Roma attraverso una piattaforma. Sì, noi abbiamo dato a disposizione del Comune di Roma una piattaforma che si chiama Movement, nel quale possono vedere dati real time aggregati su quello che succede. E questa piattaforma permette a loro di valutare e validare potenziali investimenti che vogliono fare in infrastrutture ciclabili per la città, perché questo è anche un altro problema della città di Roma, no? Mancano le infrastrutture per renderla possibile. Utilizzatore tipo chi è? Il turista? L'impiegato? La maggior parte degli utenti che utilizzano questo servizio è effettivamente cittadini romani, quindi sono cittadini romani per il 75% all'incirca delle corse che vediamo, e la restante percentuale riguarda i turisti. Cosa rispondiamo a chi dice che il servizio è troppo costoso? Allora, il servizio ha un costo che di fatto è in linea a quello che abbiamo in tutte quante le capitali europee nelle quali operiamo. Siamo presenti in questo momento su 10 città in Europa. Nel caso specifico di Roma mi rendo conto che possa essere un'alternativa che ha un costo, ma sicuramente va con affrontato questo costo rispetto a quello che è il costo delle alternative che ci sono a disposizione degli utenti, e quindi anche bisognerebbe soffermarsi anche un attimo a pensare al costo dell'auto privata, cosa che stiamo cercando di sostituire con tutta un ecosistema di mezzi in sharing che stiamo offrendo ai clienti. Quindi il costo di questo servizio è di fatto riflesso in una qualità del servizio che stiamo dando agli utenti, quindi una bicicletta con un contenuto tecnologico molto elevato, ma soprattutto una squadra di persone che lavorano sul territorio, che si occupa della manutenzione, della ricarica delle batterie, per far sì che l'utente possa sempre trovare la bicicletta in perfette condizioni. E questa squadra da quante persone è composta? In questo momento da 50 persone sul territorio di Roma, che 24 ore al giorno si occupano appunto di monitorare la flotta e di fare manutenzione e ricambio delle batterie. E invece non avete avuto atti di vandalismo? No, allora, gli atti di vandalismo che abbiamo avuto in questo momento sono estremamente limitati, parliamo di qualche decina di casi. Di fatto, anche qui, sorprendentemente rispetto a quello che stiamo vedendo in altre città europee, Roma è la città dove il tasso di vandalismo è più basso. Questo, a mio parere, conferma il fatto, perché sempre poi alla fine guardando il cliente, che è quello che ci dà la risposta finale, che il servizio è apprezzato, che le biciclette sono di alto valore tecnologico e che quindi gli stessi romani si stanno prendendo cura di questo bene a disposizione della città. Questo è un servizio in free floating, cioè possono essere parcheggiate ovunque le bici, però all'interno di zone ben delimitate, altrimenti c'è una sanzione, giusto? Esatto, allora al fine di... All'interno di quest'area che stavo descrivendo prima, quindi di 67 km quadrati, esistono delle aree che noi chiamiamo no parking zone, cioè delle zone dove le biciclette non possono essere lasciate. Perché non possono essere lasciate? Perché altrimenti non garantiremmo il decoro pubblico di una città come Roma, che ha tantissimi beni pubblici e artistici da conservare. Quindi l'utente che cerca di parcheggiare la bicicletta in un'area in cui non è permesso parcheggiarla, di fatto riceve un messaggio che gli dice che in quell'area non è consentito parcheggiare, e se decide comunque di lasciarla in quell'area riceverà una multa, e i nostri operatori in parallelo nel giro di qualche ora rimuoveranno la bicicletta da quell'area. E pensate anche di lanciarvi nei monopattini elettrici? Stiamo aspettando che il contesto normativo si chiarisca. Chiaramente nel momento in cui siamo presenti sulla città è nostro interesse fornire tutti quanti i prodotti che la nostra azienda sta mettendo a disposizione in altre città, quindi appena ci saranno i contesti normativi corretti per poterlo fare, chiaramente valuteremo con attenzione se poter entrare. Quindi anche a Roma? Anche a Roma. E invece come Bici Jump, quali saranno le prossime città in Italia e in Europa? Sull'Europa ci sono piani piuttosto ambiziosi di ingresso in varie città. Come puoi immaginare, noi siamo estremamente dipendenti da quello che è il contesto normativo di ciascun municipio, e quindi dobbiamo aspettare che si creino le condizioni, quindi fondamentalmente che si aprano delle gare o delle manifestazioni pubbliche di interesse per poter entrare. Chiaramente il nostro interesse è quello di fornire questo servizio a più cittadini possibili, e quindi stiamo guardando con attenzione anche in Italia ad altre città. Milano, ad esempio? Milano è sicuramente una città interessante. Ha aperto negli ultimi mesi una gara e stiamo aspettando in questo momento i risultati sulla nostra domanda che abbiamo fatto. Quindi ci auguriamo ben presto di portare anche questo servizio su Milano. Per concludere, come vede lei la mobilità urbana del futuro? Come auspica che possa essere? Le do una risposta politica. Come Uber pensiamo che la mobilità, per essere sostenibile, debba essere elettrica e condivisa. Io personalmente sono totalmente d'accordo. Io ero un utilizzatore di sharing molto molto frequente anche prima di intraprendere questa impresa. Ho venduto la macchina ultimamente, quindi sto cercando di capire se veramente è possibile questa cosa. Quindi mi auguro davvero che nel futuro prossimo si possa arrivare a una situazione in cui l'ecosistema di trasporti pubblici, servizi di mobilità che vanno dal bike sharing, scooter sharing, piuttosto che carpooling, car sharing, permettano agli utenti di muoversi efficientemente, magari anche a un costo minore e con un impatto ambientale minore, in tutte quante le destinazioni in cui devono andare. Penso che sia possibile, penso che stiamo andando nella direzione giusta, anche perché al di là di noi ci sono molti altri player presenti, è un ambito, un'industria molto fervente, e penso che nel giro di qualche anno vedremo delle belle sorprese. E altro operatore presente nella capitale con altri numeri e con altri prezzi è Elbitz, con le sue bici elettriche Greta, bici che però non sono sempre reperibili, come abbiamo sentito anche dalle nostre interviste all'inizio. Abbiamo chiesto perché allora Salvatore Palella, fondatore e amministratore delegato di Elbitz. Noi, allora, a differenza dei competitor che hanno nominato prima, non amiamo, e questo lo facciamo in tutte le città dove lanciamo, come in questi giorni stiamo lanciando Washington, o settimane fa Miami, oppure Milano tra qualche settimana. Noi non andiamo a debuttare con 2000 mezzi tutti in una volta, abbiamo un'autorizzazione per 2500 mezzi e stiamo aumentando ogni settimana. Abbiamo debuttato con 250 mezzi e arriveremo a 750 mezzi entro la fine di febbraio, dopodiché arriveremo alla fine della primavera al tetto totale di 2000 mezzi. Questo perché lo facciamo? Perché vogliamo istruire anzitutto il cittadino a questo mezzo. Non vogliamo che i cittadini che lo utilizzano si sentano confusi, magari sprovvisti da questi mezzi parcheggiati in maniera random nei marciapiedi, e quindi amiamo gestire il territorio e non essere invadenti. Ecco, quindi aumenterete anche l'area coperta, perché attualmente mi sembra, avevo letto, è di 27 chilometri quadrati. No, questo è un dato che è uscito su un giornale che è assolutamente sbagliato. Può confrontare insieme anche alla geofence degli altri competitor. Noi abbiamo la geofence più grande di Roma, sono 55 km quadrati, e in più un altro motivo per cui non lanciamo, e questo mi piace evidenziarlo perché tanti, usando i nostri competitor, hanno avuto questo problema: noi non facciamo $25 di multa, 25 euro di multa per ogni parcheggio errato. Ecco perché non molliamo 2000 mezzi sul territorio e ce ne dimentichiamo facendole ricaricare da terzi. Non è questo il nostro obiettivo. Noi abbiamo tutti coloro che ricaricano, che custodiscono, puliscono, mantengono straordinaria e non straordinaria la nostra bicicletta, sono tutto personale prettamente Elbitz, quindi un personale che ha ricevuto un determinato tipo di tirocinio, che ha ricevuto un determinato tipo di istruzione e che è disponibile poi nel migliore dei modi per nell'efficienza del territorio. Per arrivare a dire che noi per il parcheggio errato non mettiamo momentaneamente 25 euro di multa, e anche quando inseriremo la multa, quando avremo 2000 mezzi, sarà di 10 euro e sarà accettata dall'utente. Quanti sono le persone che si occupano della logistica, della manutenzione a Roma? 20 persone, e arriveremo a un massimo di 60, se non erro, a pieno regime con le 2500 bici. Però, bella notizia da dare, ho anche saputo che il Comune di Roma, molto attento alla mobilità, si sta in questo momento attivando anche per l'inserimento dei monopattini. Quindi, qualora avessimo anche quelli, saremmo sicuramente intorno a un centinaio di persone che lavoreranno a pieno regime nel nostro territorio. E invece non avete avuto atti di vandalismo? Tengo tantissimo a dare questo dato, vorrei sfatare un mito. Noi abbiamo avuto 1/2 interventi di vandalismo in circa 120 giorni di utilizzo, il che vuol dire che tutti i vari commenti che spesso leggo sotto le notizie a proposito di biciclette nostre o di concorrenti o di altro, quando dicono non vedo l'ora di vederle sul Tevere, non vedo di qua, non vedo di là, siamo spesso noi che partiamo maliziosi, ma in verità la gente ama questo servizio e non vuole farlo allontanare dalla città. Nei progetti futuri di Elbitz cosa c'è? Una mobilità sempre più integrata? Dare la possibilità nelle città dove siamo presenti con monopattini, biciclette, ma devo ammettere che tra poco avremo anche una novità nel territorio italiano perché inseriremo il nostro motorino elettrico. Quindi nelle città dove siamo presenti con più veicoli, dare la possibilità di avere un solo abbonamento e un numero illimitato di minuti. Come vedete, anche nei nostri, come siamo presenti a Roma con un prezzo molto accattivante, anche a Milano, Torino, Verona, siamo presenti con un ottimo prezzo, noi puntiamo nel prezzo, ma allo stesso tempo non vogliamo farci mancare la qualità del servizio e la qualità dei mezzi. Sicuramente poi ci saranno tanti nuovi altri mezzi che arriveranno. Noi per esempio siamo in test con il drone taxi ad Antigua, dove colleghiamo l'isola di Antigua a quella di Barbuda, e questa potrebbe essere una bellissima iniziativa per collegare gli aeroporti come quello di Malpensa o di Fiumicino nelle varie a Milano o Roma. In quanto una distanza che in genere è percorribile in un'ora col traffico potrebbe essere percorsa in poco meno di 12-13 minuti, il che darebbe sicuramente molte meno automobili e quindi automaticamente diminuiamo tutto quello che è lo smog, che è un argomento di cui credo che sia Roma che Milano ne facciano molto, molto calore. Ebbene, questi erano i due operatori di bike sharing a confronto nella capitale. Mandateci, se volete, anche voi le vostre esperienze a Ruota Libera, a radio24.it o attraverso la nostra pagina Facebook. Buona domenica, buon pomeriggio e buone pedalate.